tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale che si apre veramente con toni trionfali a causa dello scandalo del Cardinal Becciu. Ricordiamo la vignetta di Vukic, il Cardinal Becciu dice che ha dato tutti i soldi alla Caritas, ha fatto la Caritas ai fratelli, risponde un altro prete. Il giorno del 25 settembre, Vaticano shock, il Papa caccia Becciu dai cardinali, tutto un gioco di parole, caccia Becciu, costretto a dimettersi dopo il duro confronto con Papa Francesco. L'ipotesi, l'inchiesta dell'immobile di Londra, ma spunta anche un finanziamento al fratello. Scandalo Becciu in Vaticano, dice il Corriere della Sera. Gli affari milionari del cardinale. Palazzi di lusso, fondi e conti offshore. Procede l'inchiesta penale dei promotori di giustizia sulla gestione degli affari della Segreteria di Stato per ben 700 milioni di euro. Scandalo in Vaticano. L'ormai ex cardinale Giovanni Angelo Becciu è nella merda fino al collo. Scandalo in Vaticano. Le accuse. Il cardinal Becciu ha rinunciato ai diritti al cardinalato, ma lo scandalo lo ha coinvolto in questi giorni non sembra destinato a placarsi. Dirottava i soldi della CEI e dell'obolo di San Pietro ai familiari, e altro che poveri. Gli affari milionari di Becciu. Le attività gestite da Becciu e i propri fratelli sembrerebbero riconducibili a un giro d'affari che conta milioni di euro, 50 milioni di euro. A questi altri 200 milioni di dollari su una piattaforma petrolifera in Angola, la banca Credit Suisse, insomma tutta la merda della finanza internazionale c'è dentro. Somme importanti, dice l'Espresso, dice la Repubblica, dice il Corriere della Sera, tutti addosso al prete, 300.000 euro là, 300.000 qui, soldi presi direttamente dall'8 per 1000. Disgrazie clericali. Ricordiamo la tragica vicenda che avvenne nel 20 luglio 2020 a Pietrastornina e il diacono che conduceva la messa, invece di avere un grande miracolo, un beneficio, è morto stroncato da un malore proprio durante la messa, l'hanno portato direttamente al cimitero. Nessuna vergogna a raffigurare un branco di assassini in una chiesa canadese. È la Madonna della Difesa a Montreal, dove questi clerico-fascisti hanno dipinto addirittura il duce e gli altri suoi carnefici nella chiesa. E passiamo ai preti pedofili, il nostro cavallo di battaglia. 18 agosto 2020, a Findlay, negli Stati Uniti, Don Michel Zacharias arrestato per pedofilia. Lo stesso quotidiano dei preti, L'Avvenire, ammette: abusi nella chiesa, scandalo di pochi, dilagato per la mediocrità di molti. Comunque, quale che sia la causa, comunque è dilagato e speriamo continui a dilagare. Privilegi clericali. Il ministro Speranza chiama Monsignor Paglia alla guida della commissione assistenza anziani. La laicità va a farsi benedire dall'UAR di settembre 2020, come al solito. Più sono corrotti e più i politici li aiutano. Dal giorno del 25 settembre ci ricorda come il povero Alberto Moravia ebbe i suoi libri messi all'indice. Basti pensare, dice, che i racconti del 1952 venivano messi all'indice del Sant'Uffizio, mentre il Mein Kampf di Hitler non era all'indice, tanto per dire la coerenza dei preti. Chiama il cardinale a fare la predica contro la corruzione, ma lui è il primo dei corrotti. Il presidente della regione Lombardia, il filo crocifissi Fontana, a gennaio invitò il cardinale di Milano a fare una bella predica contro la corruzione, salvo poi scoprire il suo nepotismo, i suoi affari con la moglie, il cognato, eccetera, eccetera, mega evasioni fiscali, un fracco di soldi in Svizzera, conti correnti, Credit Suisse, insomma, ogni mondo e paese. Dall'archivio storico del centro anticlericale di Fano, l'archivio Travaglini, c'è questo documento d'epoca, 16 giugno 1874. prete seduttore a Bisalquino, Palermo, ferito a colpi di pistola dal marito cornuto. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Dal calendario 2021, che ricordiamo è dedicato a Dante Alighieri nel settecentesimo della morte, leggiamo qualche data di settembre 2021. Dante incontra frate Alberigo nell'inferno, traditore degli ospiti. 26 settembre 1982, sagrestano assassino a Carlentini, Catania. Avvelenò un prete. 27 settembre 1685, messa all'indice dei libri proibiti una guida spirituale del prete eretico Don Miguel de Molinos, già arrestato dall'Inquisizione. 28 settembre 1341, l'inquisitore domenicano Giovanni Schwenkenfeld è assassinato a Praga in circostanze oscure. 29 settembre 1996, una suora inglese intenta causa contro la Chiesa che aveva coperto un prete che l'aveva seduta e abbandonata. 30 settembre 2018, abuso della credulità popolare ad Agira Enna, la statua di un santo Suda, le solite truffe clericali. Accadde nel mese di settembre 1297, l'eretico milanese frate Pagano è scomunicato e condannato dall'Inquisizione a portare in perpetuo due croci sulle vesti. Bene, saluti a tutti, arrivederci a domenica prossima. Chi vuole copia del calendario, info@sicilialibertaria.it o telefonare a Pierino al 331-730-2974. Saluti. Monaca facevo scuola, ora son monaca con la pistola. Quando ero monaca del campanile, ora son monaca a porto il fucile. Quando ero monaca di questo convento, ora son monaca ad un reggimento. Son monaca, servo un plotone. Tutti i bambini!